educazione, non per altro, solo per educazione. Va bene, vuol dire che sono anche un asino, dai. Chiesco, mi hai rotto le balle, Anto, ti stai peccando in incastrate, va, mi stai, cominciamo nuovamente a rompere le balle. Non ti si può dire niente, continua con G, continua con H. Se vuoi giocare giochiamo, se no basta. Sopla, vai a fanculo. Ecco, allora, altrettanto, Anto, fai una cosa, quando ci sono io, evita di entrarci, così non abbiamo discussione, dai, fai la brava. E te l'ho già detto, dai. E vai a far culo allora, vai, bravo, bravo, ciao. E va a far culo. Ecco il rompimento di balle che si dica, per carità. Non ti si può dire niente. Cisci, cisci. Cosa stavi dicendo già? Niente, che ci può salire adesso a vedere, se ce l'ho quel pezzetto ve lo do io, non c'è problema. Guarda a vedere, perché ne ho uno anche io. Ne ho uno anche io, però non so da quanto è. Devo vedere, se è da mezzo pollice va bene, se è più grosso non ha nessun significato metterlo più grosso. Giuseppe, passa a prenderti il trappano. Ehi già, Antonio. Dammi un orario e se c'è il chimico ti dà anche quello, eh. Vabbè, ma dove faccio? Io non so dove abiti tu. Via Rockefeller, dopodiché il cellulare ce l'hai? Sì che ce l'ho. E allora fammi uno squillare il cellulare. Ma io il numero tuo non ne ho, eh. Il numero ti sto dicendo, ce l'hai, il cellulare. Allora segnati 338 23 20 438. Aspetta un attimo, 5 minuti. Dai. E dimmi. Tutti i casi del microfono, c'è il microfono smontato. Sì, ma non è come lui si è afflusciato. Ehi, non ho fatto il sapere per me, per cui non vive. Non ho superato la metà portata dentro, fatta copi tagliati, legati a scotch, eccetera, eccetera. Salgo sul tetto e glielo porto giù il tubo se ce l'ha. Già, da quant'è? Se da mezzo, se quello che era avanzato, se quello che era antenna, fammi sapere già solo qua. Cosa hai detto, Antonio? Ha detto, ho smontato il salerno per le guide, no? Per cambiare invece il guido, ma quello che c'è non va bene. E da notte mi sono mai già acciappato una mezza porcata, i capi tagliati, legati a scotch, boh. Giuseppe. Niente, che si dà di buon in culo, è così. È così, non c'è niente a fare. Dimmi, Giuseppe. Dimmi il numero, io. 338 23 24 38. 338 23 24 38. Ok, capa. Che ora passi? Dammi il tempo di arrivare, sono, che ne sono, le 3:10, faccio le 3:15, dai, sono lì. Ma le gaffe ce le hai? Gaffe ce le ho, non ti preoccupare, quello ce le ho, c'è tutto quanto, mi manca solo il trapano e la punta da 14. E cosa c'è, tassilli per 14 o vuoi il chimico? Lo devo passare anche a prendere Antonello, perché questo lavoro lo facciamo in due, lo facciamo con Antonello. Già vengo anch'io, dai, vengo anch'io. Va. Aio, vai Giuseppe. Via. Che te la fischiano, Mauro, tu sì. Casa direttivo. Anima lunga. Buonasera a tutti, dai. Ciao a tutti. La direttiva. La direttiva, non c'è bisogno di direttive qua, no. Ti abbassa quello che abbiamo. Allora, ma è travagliato un segretario, invece di fare bernacchie, capo di gatto. Ho già visto. E si chiede che la gente è fuori, ragazzi. Otto aprono la porta. Oh, voi siete dall'altra parte della città, te lo passi di tutti, eh. È sempre stato precario. E non vuoi sgogliare a mangiarmi. Ciu ciu. Certo, se mi bacio una volta a sentire vuoto, mi hai dato il guglione e mi rimagno. Cazzo, c'era quasi nera, la pennichella, non sapevo fare noi, sapevo. lo dico. Non so se viene Fabrizio, mi deve chiamare. Non so, ma detto che ci sentivamo ieri non te ne ha detto. Se passa già sono a casa per sé. Non te ne può fare niente. No, fare le comparazioni della ricezione tra uno e l'altro, capito? Perché se è quello il problema lo risolviamo subito. Se poi non è quello il problema, allora la deve mandare al centro assistenza. Per fare tutta la taratura sia dell'FM, M, la parte del meter e così via, capito? Io sono convinto che deve fare quella taratura di per forza, perché se in FM fa quel difetto, è sordo, infatti che al contrario per loro, provate, perché se va in FM noi abbiamo con 10... aumenta il doppio del segnale, quindi attiva addirittura la ricezione. Dunque beh, c'è qualche problema che non va, magari è una cazzata, qualche dio che ha dei problemi magari, può farlo anche lui. Per me gli conviene, io addirittura una sassa, se ne lo fa qualcuno con un strumento, poi al limite se male va, lo spedisce e si risparmia quei soldi. Non sai, di tutti quanto so, tra spedizione e riparazione non mi rimuovi 120 euro. E io se lo faccio di spedito, infatti devo lasciarlo, si prende quello che so io, che è nuovo, e versiamo quello così com'è, che le gatte di rattaratturi e ci la metti di base. Che problema c'è? Non c'è nessun problema, intanto io le devo versare tutte e due, quindi. Però quello nuovo, che è questo, che sto usando, che è perfetto, non ha niente da fare, versiamo quello lì, quindi non è quello il problema. Dobbiamo però verificare se è una taratura di smittere o se c'è qualche altra cosa, capito? Tom? Infili dentro, poi giri e stringi, si allarga all'interno e non esce più. io addirittura gli avevo fatto un buco da 13, infilata a mazzetta, e poi gli ho dato una stretta, perché già lo sa come tirare il bufato. Ho messo anche il silicone per fare da guarnizione all'interno, prima di, ho spruzzato pure il silicone all'interno prima di metterci la cosa, come io l'ho stretta, il silicone è venuto fuori, gli ho fatto da guarnizione. Lì già non lo so se va bene a mettere quella lì, ma tu chi sono? Porattini, ma detto. Non lo so, comunque, già stanno andando altre persone, quindi, però loro. Speriamo anche agli addetti in terra, Giuseppe, cazzo. Forattino, già ci vuole il chimico con la calza. Più che il chimico vuole fare il buco, ho messo il cemento è stata una staffa fatta bene, con le piatta dietro, allargata, di modo che non esca più sul cemento, e così il recidibile, io glielo ho detto dall'inizio. Non lo so se Claudio era l'ascolto quando glielo stavo dicendo, ma glielo ho detto dall'inizio che così non regge, lui lo vuole fare così, lo siamo qui. Ma perché non si può fare lì il forattino? Si dice che non si può fare a bucare, che viene male. Il forattino si è sempre bucato. La metti il cemento qui all'interno, ne metti la staffa e poi la incementi, la lasci asciugare, vedrai che non ti esci più. Tanto prima di lungo il forattino. Però se è fatta così alla capo di cane, rischia che gliene accade tutto in terra. So, vede lui cosa vuole fare, se si può fare il foro, il forattino ne mette la staffa quella che hai detto tu, fatta, e se no portasse lo chimico, oppure di quella resina rapida come ho fatto io, non c'è problema. Giuseppe, si può fare il buco a forattino con mazzetta e scalpello, non viene male? Viene un po' male, capito? Viene male perché deve salire sopra questa specie di grondaia, capito? E dunque non c'è neanche un po' da girarsi, cra, perché come ti giri il cazzo ci scendi giù e altezza sono 3 metri, capito? Cioè ci direttamente a casa la ferrovia. No, fate come stavo dicendo allora. Mettete il tassello chimico e basta, se no è un casino, perché col forattino quando stringi spacca, è successo da Mauro, alla fine abbiamo provato una volta, poi la seconda volta abbiamo messo il tassello chimico, non c'è niente da fare, col forattino non c'è Cristo, credete? Ricordo. Oh Giuseppe, ma il palo ce l'hai dietro? Cioè non dietro in macchina, mi intendo. Okay. Allora portalo su a casa un attimino, gli facciamo 2 buchi, dai. Cappa. E quando arrivi in via l'Italia devi scendere verso il basso, Io sono qua nella zona via dove c'è il Lazzi, quella zona lì, dai, adesso. Cappa, chiamami al telefono che sto iniziando a tagliare la barra filettata, dai. Cappa, faccio. Allora mi ti faccio l'addebito perché non c'ho credito nel telefono, Fai su di voi, basta il telefono. Cappa. Andrei già libero oggi. Oggi e domani, che 2 liberi. Mi sa che chiama Franco e ce ne andiamo a Calamari. Cosa ne dici? Mi sa proprio di sì. Era cena